TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Verso il referendum tra i lavoratori all'Electrolux di Porcia non trovato l'accordo sugli straordinari chiesti dal gruppo degli elettrodomestici. Lavoro, pensioni, extra profitti. Il segretario della UIL, Bombardieri a Trieste, interviene sui nodi della finanziaria e sui rapporti tra sindacati. Apertura ufficiale di tutte le aree dell'ITS Malignani di Udine, l'ex Dormish, torna a nuova vita grazie agli investimenti di Danieli. Regioni del Sud in controtendenza per valore aggiunto, ma il divario sulla ricchezza pro capite è sempre profondo. Il ritorno dei castori nel Tarvisiano a monitorare movimenti e crescita della piccola comunità, un gruppo di ricercatori. Non siamo stati capaci di indirizzare la partita dopo averla condotta quasi esclusivamente noi, la delusione di Mister Tesser per la sconfitta della Triestina. 12 e 31 minuti, buongiorno da Andrei Marušić e Rita Micoli. Come avete sentito dai titoli, alla Electrolux di Porcia il mancato accordo sugli straordinari del sabato per far fronte a un cospicuo ordine ha portato alla decisione di indire un referendum tra i lavoratori che nel corso delle assemblee si sono divisi sul da farsi. Alla fine si andrà a referendum all'Electrolux di Porcia, oggi le partecipate assemblee con i lavoratori e lavoratrici, l'RSU, FIM, FIOM e UILM non hanno portato un verdetto unanime sulla proposta di 5 sabati lavorativi tra novembre e gennaio di 6 ore in straordinario e fermata collettiva dal 24 dicembre all'Epifania. Roberto Zami, UILM. Purtroppo non siamo riusciti ad avere un verdetto finale perché l'assemblea era molto eterogenea, quindi ci siamo lasciati con quella di riuscire a fare un momento di consultazione per cercare di compattare le persone e nello stesso tempo fare quest'oggi pomeriggio un passaggio con l'azienda per fare una prima analisi di quello che è il risultato dell'assemblea, di quello che è il malessere generale che le persone stanno vivendo ormai da troppo tempo. I sindacati contestano un clima di malessere dovuto anche a disfunzioni tecniche e produttive, anche legate all'automazione delle linee, con oltre 9.000 pezzi persi da gennaio a oggi e relazioni sindacali con l'azienda in crisi. Ancora Zami. Il sistema di relazioni sindacali che ci ha permesso di gestire momenti di grande difficoltà è messo in crisi. E se un sistema è messo in crisi è perché le parti, entrambi le parti, in modo particolare l'azienda, non ha più manifestato quella volontà concreta di sedersi intorno a un tavolo con le commissioni tecniche, affrontare i problemi tecnici, affrontare le disfunzioni organizzative che quotidianamente si vivono. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. In Consiglio regionale la proposta di legge nazionale in materia di disposizioni per l'organizzazione di eventi, espressione del territorio e della tradizione e delega al governo per il riordino complessivo della materia. Sentiamo in questa intervista il Presidente del Consiglio, Mauro Bordin. Una proposta di legge nazionale che vuole sensibilizzare il Parlamento e il Governo a semplificare le regole e le norme per l'organizzazione degli eventi. Un segnale di vicinanza al mondo del volontariato, la volontà di semplificare e di aiutare chi oggi si dedica al prossimo e che si sente molto spesso oppresso dalla burocrazia. Quindi vogliamo dare la sensazione di istituzioni che sono vicine al territorio, vicine alle comunità. Speriamo che il Parlamento accolga questa proposta che viene da noi ma arriverà anche dagli altri consigli regionali. Quali sono i tempi poi per l'approvazione a livello nazionale? Ma noi siamo il primo consiglio regionale che ha approvato questa proposta, la trasmetteremo al Parlamento, attendiamo l'approvazione da parte degli altri consigli regionali, nel frattempo il Parlamento può iniziare già ad approfondirla e naturalmente non mancheranno le interlocuzioni della conferenza dei presidenti dei consigli regionali con il Governo e col Parlamento per cercare di sostenerla. È una proposta, un progetto di legge che ha preso corpo proprio qui in Friuli Venezia Giulia a Udine qualche tempo fa, però il Friuli Venezia Giulia non è solo in questa corsa. È una proposta di legge nazionale che ho portato all'attenzione delle varie regioni italiane in occasione della conferenza delle assemblee legislative, è stata approvata da tutti all'unanimità, quindi è un qualcosa che trova la sensibilità comune di tutte le regioni del nostro paese, per cui non siamo soli e questo ci rende assolutamente felici. L'intervista era di Lorenzo Gerlinzoni. Salari, potere d'acquisto, contratti collettivi da rinnovare sono alcuni dei temi affrontati dal segretario nazionale della UIL Bombardieri a Trieste per celebrare oggi gli 80 anni di presenza in città del sindacato, e che a margine ha anche spiegato che cosa lo convince e che cosa no della finanziaria. Ci convince il fatto che questa volta ci sia stato un confronto rispetto al passato. Il governo non si è presentato con un pacchetto già chiuso e determinato. C'è stata la possibilità di discutere, ci convince il fatto che sia stata accolta una nostra proposta che riguarda la detassazione degli aumenti contrattuali e delle risorse aggiuntive per interventi sui contratti pubblici. È una cifra importante, sono 2 miliardi, ma soprattutto si riconosce un principio, che in questo Paese c'è un tema di salari, di recupero della perdita del potere d'acquisto, e che questo deve e può essere fatto attraverso il rinnovo dei contratti con una cifra che il governo mette a disposizione per incentivare questi rinnovi. Quello che non ci convince riguarda le richieste che noi abbiamo fatto anche negli anni precedenti. Non ci convince la cartolarizzazione delle cartelle esattoriali, perché in questo Paese passa un principio per il quale chi non paga le tasse alla fine trova una scappatoia, e noi invece continuiamo a dire che in questo Paese l'IRPEF è versato da lavoratori dipendenti e pensionati, e bisogna in qualche modo trovare una progressività prevista dalla Costituzione anche per chi paga le tasse. Non ci convince tutto quello che è stato deciso sulle pensioni. Si allontana la possibilità di andare prima in pensione, soprattutto per chi fa lavori usuranti. Non si affronta il tema di strutturale, di non considerare allo stesso modo tutti i lavori. Si peggiorano le condizioni delle donne, viene ancora esclusa la possibilità di recuperare opzione donna, che era una misura che dava la possibilità alle donne che avevano lavori particolarmente usuranti e che si trovavano in alcune condizioni di andare in pensione. Tutto questo ovviamente non ci convince, lavoreremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per provare a modificare queste scelte. L'intervista era di Lara Zani. All'indomani dello sgombero di una struttura privata per anziani del centro di Trieste a causa di serie carenze riscontrate dai carabinieri del NAS, siamo andati a capire quali sono le caratteristiche di queste residenze, caratteristiche per lo più del capoluogo giuliano. Ci ragguaglia in studio Daniele Letici. Carenze strutturali dell'immobile, problemi sia sul versante igienico-sanitario che organizzativo, sono i motivi che hanno portato all'evacuazione e al trasferimento in altre strutture convenzionate dei 15 anziani ospitati nella casa di riposo Flora 2 di via Carducci a Trieste, di cui è stata disposta anche la sospensione dell'attività. Un intervento deciso dall'azienda sanitaria Giuliana Esontina in seguito a un'ispezione condotta nella struttura dai NAS dei Carabinieri, durante la quale sono stati riscontrati diversi aspetti non in conformità con i piani assistenziali, con ambienti non idonei, ospiti in precarie condizioni di igiene e situazioni di criticità dal punto di vista dell'organizzazione e del personale di assistenza. Il decreto di sospensione è provvisorio, in attesa dei necessari adeguamenti della struttura prescritti da ASUGI, che a quanto si apprende necessiteranno diversi mesi e dovranno essere vagliati da un altro controllo. Proprio le strutture come quelle di via Carducci, spiegano diversi operatori che conoscono la realtà delle case di riposo, sono quelle più a rischio, come si era visto anche nel periodo della pandemia da Covid. Si tratta di residenze a carattere privato, quasi sempre non convenzionate con il servizio sanitario, piccole, ubicate in contesti molto urbanizzati e in situazioni spesso promiscue, in cui è più facile che si determinino criticità. Sono diffuse in particolare a Trieste, dove se ne trovano una quarantina con circa 700 posti letto. Grazie Daniele. Invece inaugurazione ufficiale questa mattina per il nuovo ITS Malignani, la struttura didattica sorta al posto dell'ex Dormish di Udine, operativa da febbraio e finanziata con 25 milioni dal gruppo friulano Danieli. Più recente l'apertura dell'area direzionale, che comprende anche un bistrò. Siamo all'interno dell'ex stabilimento Dormish, che oggi è una struttura molto luminosa, piena di legno e piena di aperture con grandi finestre verso l'esterno, verso il canale Ledra. È proprio in questi ambienti che i giovani, circa 400 gli iscritti, attualmente poco più di 400, con 18 corsi diversi, i giovani iscritti all'ITS Academy di Udine apprendono tutto quello che serve all'industria oggi. un istituto di alta formazione che esiste da 15 anni e che continua ad attrarre sempre più giovani, appunto. Lo chiediamo alla presidente dell'ITS Academy Udine, Paola Perabò. Noi da 15 anni operiamo nel settore da prima della meccatronica e manutentore aeronautico, quindi nel 2017 siamo entrati nel legno arredo e ultimamente sistema casa, e da 2 anni anche nel settore del turismo. Quanto è importante questa nuova sede per voi che oggi inaugurate, ma siete qui da febbraio? Noi con questa nuova sede abbiamo potuto osservare la gioia dei giovani che sono venuti a fare orientamento nel capire che una loro possibile strada di impegno per il loro percorso professionale poteva proprio essere il biennio dell'ITS Academy Udine. E quindi ci poniamo come centro anche di orientamento per sia le scuole medie che le scuole superiori, e quindi per dare un'altra opportunità ai giovani, quindi non solo l'università ma anche gli ITS, possono essere opportunità di sviluppo professionale per i giovani. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento. Il mezzogiorno migliora e supera il nord per valore aggiunto, così indicano gli ultimi dati di Istituto Tagliacarne Unioncamere. Ma dal punto di vista della ricchezza pro capite, il divario nord-sud è sempre profondo. Il servizio di Francesca Cosentino. Nel 2024 il valore aggiunto al sud ha corso a una velocità una volta e mezzo superiore a quella del nord, più 2,89% contro l'1,77%. È il centro sud Italia Carne e Unioncamere a fornire gli ultimi dati sulla crescita e il benessere del paese. A muoversi con passo più spedito la Sardegna con più 3,74%, poi Puglia e Calabria, mentre su base provinciale registrano un vero e proprio sprint Viterbo, Imperia e Foggia. Performance negative invece per Modena e Vicenza, insieme ad altre realtà del nord. I motivi principali del rallentamento al nord sono la crisi dell'industria e i dazi, mentre le affermazioni del sud dipendono da un boom dell'agricoltura. Ma se guardiamo il quadro a livello pro capite, la situazione si rovescia. La ricchezza prodotta resta salda al settentrione, circa 40.000 euro a testa, contro i 22.000 in media del mezzogiorno. Al primo posto troviamo così il Trentino Alto Adige con quasi 49.000 euro, seguita da Lombardia e Valle d'Aosta. In fondo troviamo la Puglia, poi Campania, Sicilia e ultima la Calabria. A livello provinciale Milano è sempre la più ricca con oltre 65.000 euro pro capite, seguita da Bolzano e Bologna, mentre sono tutte meridionali le ultime 28 province in classifica, che chiude con Sud Sardegna, Cosenza ed Agrigento. Il ritorno dei castori nel Tarvisiano a seguire i movimenti e l'evoluzione della piccola comunità è un gruppo di ricercatori guidati da Paolo Molinari. Ci troviamo nei pressi della conca dei laghi di Fusine, sul Rio Bianco, nei pressi del biotopo la Torbiera Scichizza, che è un ambiente umido con terreni, con piante molto vecchie, terreni ricchi d'acqua, ristagnanti, con risorgive, ed è l'ambiente ideale per il castoro che non solo è tornato in regione, ma si sta riproducendo, e siamo quantomeno a 6 esemplari censiti. Alcuni di questi hanno anche un nome, il più piccolo nato si chiama Speedy, per esempio, perché ricordava ai ricercatori il cartone di Speedy Gonzalez, mentre il primo ad essere arrivato qua è stato chiamato Ponta, in onore di Renato Pontarini, che è uno dei padri del progetto Lince Italia. Siamo qui con Paolo Molinari, che è ricercatore faunistico del progetto Lince Italia, e siamo davanti a una diga fatta da questi castori. Perché sono così importanti queste formazioni, queste dighe, a livello della preservazione dell'ambiente naturale ed anche della reintroduzione di nuove specie? Perché con la modificazione territoriale provocata da questa specie, che non casualmente viene definito anche l'ingegnere naturalistico che abbiamo sul nostro territorio, riescono ad allagare degli ambienti nei quali si insediano nuove specie, tra le più eclatanti la lontra, il martin pescatore, molte specie di anfibi, rettili, insetti che sono legati agli ambienti umidi, sempre più rari anche nella zona alpina, e per questo il castoro è veramente un toccasana per la natura. Abbiamo appunto questi 6 esemplari, sono tutti parte di un'unica famiglia, ma la coppia principale potrebbe, sicuramente darà altri figli, quindi è una popolazione che andrà ad incrementarsi. Sì, la previsione è questa, il territorio idoneo da sfruttare anche per ulteriori individui è ancora disponibili, però prima o poi dovranno cercarsi dei nuovi territori verso la Slovenia, dove ci sono altre zone umide molto importanti. Rimane sempre da capire se riusciranno a varcare le soglie architettoniche provocate dall'antropizzazione, come briglie in cemento lungo i fiumi o comunque delle strade che spezzano questi ambienti. Uno dei punti della vostra ricerca è proprio capire quali sono gli ostacoli artificiali alla diffusione di queste specie e cercare quantomeno di toglierli. Sì, certamente, diciamo che anche insieme ai tecnici della regione valutiamo molto attentamente lo status di questa specie, ma anche degli ambienti nei quali vivono, e l'obiettivo di queste ricerche è anche capire se attraverso delle misure di prevenzione o comunque di mitigazione si può, diciamo, venire incontro al castoro, ma il castoro è una sorta di specie bandiera. Tutti gli interventi a sua protezione poi vanno a beneficio di molte altre specie. Tarvisio, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è generalmente sereno sulla regione. Le temperature registrate alle 11 a Trieste, Udine e Pordenone 15 gradi, a Gorizia 16. A Sappada 6 gradi, a Tarvisio 10, sul Piancavallo, a Tolmezzo e a Forni di Sopra 11 gradi, sul Monte Lussari 5, sul Monte Zoncolan 6 gradi, sulla costa a Grado e Lignano 14 gradi. Ora le previsioni a cura dell'ARPA per il pomeriggio: tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per possibili velature. Nella notte e al mattino sui monti in quota vento moderato da nord-ovest, nelle ore notturne possibili foschie sulla bassa pianura. Domani al mattino variabile, in giornata cielo in prevalenza nuvoloso, forse anche coperto su bassa pianura, costa e zone orientali, dove verso sera saranno possibili piogge sparse, in genere deboli o moderate. In serata di nuovo possibili foschie sulla bassa pianura e sul Carso. Parliamo ora di temi sanitari. La radioterapia metabolica del centro di riferimento oncologico di Aviano ha rinnovato gli spazi dei ricoveri protetti, oggi più confortevoli e dotati di un moderno sistema di comunicazione tra pazienti e personale. Sul fronte delle cure arriva una nuova terapia per il tumore della prostata avanzato, si chiama Pluvicto ed utilizza una piccola quantità di sostanza radioattiva per colpire in modo mirato le cellule malate, preservando quelle sane. Trattamenti simili sono già in uso da 2 anni per altri tipi di tumore, come quelli dell'intestino e del pancreas. Il CRO è l'unico centro in Friuli Venezia Giulia autorizzato ad offrire queste cure innovative. Grazie a esami diagnostici di precisione, i medici riescono ad individuare con esattezza dove intervenire e a personalizzare la dose per ogni paziente, riducendo al minimo gli effetti collaterali. La qualità del lavoro del centro è stata riconosciuta anche a livello europeo con la certificazione EANM, che lo conferma come centro di eccellenza nella combinazione tra diagnosi e terapia. Ci vuole fegato invece il titolo della conferenza sanitaria in programma a Trieste a Palazzo Gopcevic alle 16:30, volta a diffondere una maggiore consapevolezza sul ruolo centrale del fegato nella salute complessiva dell'organismo. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Italiana Fegato Onlus e dalla Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo, con il patrocinio della Regione e del Global Liver Institute. Gli ultimi dati riguardanti le patologie del fegato parlano di un aumento delle patologie, comprese quelle neoplastiche, soprattutto nella popolazione giovane. Abbiamo chiesto al direttore scientifico della Fondazione Italiana Fegato, Claudio Tiribelli, i motivi di questo aumento. Perché è sempre più diffusa l'obesità, e l'obesità è una triade fatta da fegato grasso, diabete e ipertensione. Quali sono invece i dati per quanto riguarda la nostra regione? Ma la nostra regione è praticamente simile a tutto il resto d'Italia e del mondo. Abbiamo circa il 40% dei soggetti in sovrappeso, purtroppo il 25% degli adolescenti anche in sovrappeso non obeso, e questo è un qualche cosa che poi si riverbera nella presenza di steatosi epatica nel 40% della popolazione generale. Quali sono invece le misure preventive da adottare, quelle che impattano in modo migliore sul fegato? Ma la cosa da fare è quella sicuramente di avere una dieta più bilanciata in termini calorici e soprattutto quello di spendere di più. Ogni volta che noi diventiamo obesi o sovrappeso, parte di questa riserva calorica va nel fegato come forma di grasso. Quindi la prima cosa da fare è quella di non diventare obesi o sovrappeso facendo che cosa? Camminando e facendo un'attività sportiva, che è quella che deve piacere. Siamo anche nel periodo di raccolta delle olive, ultimamente si parla molto dei benefici dell'olio d'oliva per il fegato, è vero? È verissimo, l'olio d'oliva è un ottimo alimento che insieme alla dieta mediterranea riduce i grassi saturi e quindi migliora il metabolismo generale, per cui quello del fegato. Ci sono dei progetti nuovi per quanto riguarda il contrastare le malattie del fegato in questa regione? Per curare bisogna capire, per capire bisogna fare ricerca. Insieme alla regione la Fondazione Italiana Fegato sta portando avanti un'idea di creare un centro fegato che possa mettere insieme la parte clinica, tra cui la chirurgia, il trapianto e la parte di ricerca, per fare veramente la medicina traslazionale, che è quello che dobbiamo fare. Trieste torna ad essere la capitale della fantascienza con la 25esima edizione del Science Plus Fiction Festival, oltre 50 anteprime con registi, attori e autori da tutto il mondo. Il servizio. Una misteriosa contaminazione costringe a lottare per la sopravvivenza in un mondo pericoloso. Lui, il premio Oscar Jean Dujardin, è l'uomo che rimpicciolisce l'homme qui rétrécit, tratto dal romanzo cult di Richard Matheson. È l'anteprima italiana in collaborazione con Rai Cinema, con la quale apre questa sera il Trieste Science Plus Fiction Festival alle 20 al Politeama Rossetti, alla presenza del regista franco-olandese Jan Koenen. Max Maltoni, il responsabile della programmazione del festival. Abbiamo un calendario ricchissimo, festeggiamo i 25 anni di festival con un programma che non è mai stato così ricco, a cominciare dall'offerta nelle sale, il Rossetti e il Miela, con oltre 50 anteprime, film provenienti da 30 paesi diversi e che danno un po', almeno speriamo, quello che è lo stato dell'arte della fantascienza non mainstream, ma anche un ricchissimo programma di eventi non cinematografici. Quasi 200 gli ospiti fino a domenica 2 novembre, tra i più attesi Gabriele Mainetti, acclamato regista di Lo chiamavano Gig Robot. È il nostro presidente di giuria e Mainetti presenterà anche due classici di fantascienza che ha scelto personalmente, che sono La mosca di David Cronenberg e District 9 di Neil Blomkamp, che sono pellicole rappresentative di mutazioni carnali che però possono anche diventare morali, politici ed esistenziali. Il festival dedica vari spazi all'intelligenza artificiale. Dopo aver immaginato per decenni mondi dove a pensare erano le macchine, il cinema si ritrova a farci i conti davvero. L'intelligenza artificiale è qui e questa volta il futuro non è più fantascienza. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. State ascoltando il gruppo vocale sardo A Tenores su Concordo Iscanesu, protagonista stasera con il quartetto vocale friulano Anutis all'Enghis Festival dal Teatri des Lenghis Minoritaris. L'incontro vocale tra la musica popolare sarda e quella friulana in un concerto irripetibile che andrà in scena sul palco del Centro Culturale Bratož alle 22.30. Il concerto sarà preceduto dallo spettacolo dedicato alla poesia slovena con Goccia di sale di Patrizia Jurincic-Finžgar. In mattinata alle 11 è già partito la Auditorium della cultura friulana, il secondo convegno del festival, quello dedicato alla traduzione teatrale. Altri appuntamenti: a Pordenone tornano le serate di cinema muto, la grande parata di King Vidor, musicata dal vivo da Daniele Furlati e Alice Zecchinelli, alle 20.45 a Cinema Zero. Alcune presentazioni di libri, Insoliti ignoti, il titolo del libro di Roberto Curci, che raccoglie 20 ritratti flash, sarà presentato nello spazio forum del Museo Lez di Piazza Ortis a Trieste alle 17.30. Ricordi infausti di Emilio Stanta, memoria sulla Grande Guerra, ne parlerà Giorgio Kozlovic, nipote di Stanta, a Trieste, al Circolo della Stampa alle 18. Presentazione del libro La scuola nel mirino, ricerca vincitrice dell'11° concorso nazionale Tracce di memoria, l'aula Mania del Liceo Carducci Dante di Trieste alle 17.30. L'Associazione Luoghi Comuni organizza un ciclo di 3 incontri sul tema del turismo a Trieste, il primo alle 18 nella sala riunioni di Piazza Venezia. Vita, nuova questione sociale, invece il titolo del primo di un ciclo di incontri di sensibilizzazione del Centro d'Aiuto alla Vita Marisa di Trieste nella sala Tessitori in Piazza Oberdana Trieste alle 17.30. Una buona testa fa muovere anche le gambe, dedicato alla promozione dell'invecchiamento attivo nella sala consiliare dell'ex comune di Arzene alle 20.30. Invecchiamento attivo, buone pratiche per una vita buona e la serie di incontri organizzata a Trieste dalla Caritas. Ripensare alla vecchiaia tra pregiudizi e possibilità, il titolo dell'incontro all'antico caffè San Marco di Trieste alle 17.30. E dalla mindfulness al pavimento pelvico, incontro introduttivo alla Casa delle Donne di Udine in via Pradamano alle 18.30. E siamo allo sport, il calcio, con un ritorno amaro per Attilio Tesser sulla panchina della Triestina, che ha perso nel posticipo dell'11ª giornata contro Dolomiti Bellunesi in trasferta a Fontanafredda per 1-0. I veneti si sono imposti sul calcio di rigore trasformato da Luca Clemenza. Il commento di Tesser nel post partita: abbiamo fatto la partita per tutta la durata giocando prevalentemente nella loro metà campo senza poi riuscire a finalizzare, ma le uniche parate della partita le ha fatte il portiere loro. Non siamo stati capaci di indirizzare la partita che abbiamo pressoché dominato. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Carlo Morello e Riccardo Stoici, in redazione ha collaborato Zeno Duvan, da Andrei Marussi, Cerita Micoli, grazie per l'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.